Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Almeno dal 2004 che l'Ndrangheta è dentro il CARA e ad esempio dove ci dovevano essere almeno 1000 presenze di questi disgraziati, di questi poveretti, c'era ad esempio mangiare per 500, per 600, comunque non bastava mai. E poi abbiamo documentato, abbiamo filmato anche la qualità del cibo e noi solitamente quel cibo lo diamo a maiali. Noi solitamente quel cibo lo diamo ai maiali. Chi è che parla così? È il procuratore di Catanzaro, Gatteri. A proposito di questo blitz che è stato portato a termine oggi, portato al fermo di 68 persone in un'inchiesta sul presunto coinvolgimento della Cosca di Isola Capo Rizzuto in Calabria nel controllo del CARA, del centro di accoglienza richiedenti asilo, uno dei più grandi d'Europa appunto di Capo Rizzuto in Calabria. E fra le varie cose, questi appalti, per esempio, dice che poi portavano a questi immigrati mangiare in parte molto ridotta rispetto a quelli che erano loro come numero, ed era il mangiare ciò che di solito noi diamo ai maiali. Ci sono due notizie grosse che riguardano i migranti oggi. Una è questa, l'altra è la sentenza della Cassazione. La sentenza della Cassazione in un caso particolare di Mantova, che riguarda un cittadino indiano di religione Sikh a Mantova. La sentenza della Cassazione dice: i migranti devono conformarsi ai nostri valori, è obbligo essenziale se vogliono vivere in un mondo che è nostro, in un mondo occidentale. Ho visto già tante reazioni politiche, se volete anche le vostre, sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, 349 238 6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi riprendiamo la settimana di Effetto Notte in modo che siate aggiornati quotidianamente a fine giornata dalle 21 alle 22 su tutte le notizie principali. Quindi come sempre tra poco riassunto della giornata e poi cominciamo ad approfondire, ad affrontare i vari temi con gli ospiti. Titoli. Francia, il neopresidente Macron nomina primo ministro il repubblicano moderato Edouard Philippe e vola dalla Merkel. Insieme dichiarano: i trattati europei si possono cambiare se necessario. La sentenza della società sulla società multietnica: i migranti devono conformarsi ai nostri valori, sottolinea la Cassazione. Non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori porti a violare quelli della società ospitante. Le infiltrazioni mafiose: in due operazioni di polizia arresti per gli affari della mafia nella grande distribuzione e per le mani dell'Ndrangheta sul CARA di Capo Rizzuto. Politica italiana: Renzi sfida il Movimento 5 Stelle sulla commissione d'inchiesta e il PD voterà contro il testo base della nuova legge elettorale. Siria: gli Stati Uniti accusano Damasco di perpetrare esecuzioni di massa dei prigionieri. E poi il cyberattacco globale: colpiti 150 paesi, ma in pochi hanno pagato il riscatto. Partiamo quindi dalla pagina estera, pagina europea, diciamo, con la Francia e l'asse franco-tedesco. Oggi, prima di tutto, il presidente francese, il nuovo presidente eletto Emmanuel Macron, ha nominato il primo ministro, che ora dovrà formare la nuova squadra di governo, Edouard Philippe, il sindaco di Le Havre, che è stato nominato primo ministro, esponente moderato della destra dei Républicains. Subito dopo Macron è volato a Berlino per incontrare Angela Merkel. Faremo tutto il possibile per sviluppare nuove iniziative con Macron. La cooperazione franco-tedesca è costitutiva per l'Europa, ha detto la cancelliera tedesca. E poi, di comune accordo, i due leader, Macron e Merkel, hanno detto: i trattati europei si possono cambiare se questo è necessario. La modifica dei trattati era un tabù francese, ha detto Macron, per me non lo è. E che cosa potrebbe comportare questa dichiarazione? Cercheremo di capirlo poi nel corso stasera della puntata di Effetto Notte. E siamo alla sentenza della Cassazione sulla società multietnica, sull'obbligo in particolare per i migranti di conformarsi ai nostri valori. Gli immigrati hanno l'obbligo di conformarsi ai valori della società occidentale nella quale hanno liberamente deciso di stabilirsi, ben sapendo che sono diversi dai loro. E quanto sentenzia la Cassazione attraverso un verdetto con cui condanna un cittadino indiano che voleva circolare con un coltello sacro, secondo i precetti della sua religione. Non è tollerabile, si legge sempre nella sentenza, che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. Con il verdetto, i supremi giudici hanno respinto il ricorso di un indiano Sikh condannato a 2.000 euro di ammenda Bender al tribunale di Mantova nel 2015 perché 2 anni prima era stato colto a Goitro, nel Mantovano, dove c'è una grande comunità Sikh, mentre usciva di casa munito di un coltello lungo quasi 20 centimetri. L'uomo si era difeso affermando che il coltello in questione, chiamato Kirpan, esattamente come il turbante che indossava, era un simbolo della sua religione e portarlo costituiva adempimento del dovere religioso. Ad avviso della prima sezione penale della Suprema Corte, però, nell'onorare la propria religione o cultura di origine esiste un limite invalicabile, costituito, si legge sempre nella sentenza, dal rispetto dei diritti umani, della civiltà giuridica, della società ospitante. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci adesso delle infiltrazioni mafiose in Calabria, al CARA di Isola Capo Rizzuto, maxi operazione all'alba che ha portato alla luce gli interessi dell''Ndrangheta sul centro di accoglienza. Sul piano umano dispiace aver ascoltato le intercettazioni ambientali dove su 1000 rifugiati potevano mangiare 4,50, cioè il cibo non bastava per tutti e spesso era un cibo che solitamente si dà ai maiali. A parlare il procuratore capo della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, che sottolinea quanto si lucrasse nella gestione del centro di accoglienza per immigrati di Isola Capo Rizzuto, che tramite Leonardo Sacco, governatore della Fraternita di Misericordia, era in realtà in mano alla potente cosca di 'Ndrangheta degli Arena e almeno 36 dei più di 100 milioni di euro investiti dallo Stato nel centro di accoglienza sarebbero finiti nella cosiddetta cinella della cosca, in manette 68 persone, tra affiliati al clan già noti ed insospettabili, come il parroco di Isola Capo Rizzuto, Don Edoardo Scordio, e molti imprenditori di tutta Italia che facevano da prestanome o si erano messi a disposizione degli affari della cosca, che avrebbe anche avuto il monopolio delle scommesse online nel crotonese, con volumi di fatturato sottratti al fisco per decine di milioni di euro. Tra gli indagati c'è anche Gianluca Bruno, sindaco di Isola Capo Rizzuto. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. E poi altra operazione che ha segnato la giornata a Milano, quella che ha portato a 15 arresti, 15 misure cautelari, 2 fermi tra la Lombardia e la Sicilia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano contro le attività criminali della famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Sono accusate di far parte di un'associazione per delinquere che ha favorito gli interessi della famiglia mafiosa catanese dei Laudani, le 15 persone arrestate. Una associazione, si legge nell'ordinanza cautelare, che avrebbe ottenuto commesse d'appalti di servizio in Sicilia, da Lidl Italia ed Eurospin Italia, attraverso dazioni di denaro ad esponenti della famiglia mafiosa. Gli arrestati avrebbero ottenuto anche lavori da Lidl Italia in Piemonte. 4 direzioni generali di Lidl sono state poste in amministrazione giudiziaria. Nel mirino degli inquirenti sono finite anche alcune società del consorzio che ha in appalto la vigilanza privata del Tribunale di Milano, coinvolti anche funzionari del Comune. Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini. La facilità, lo ripeto, con cui vengono individuati, trovati e messi a libro paga persone disposte a fare questo è come pescare in un laghetto dove si va a prendere le trote addestrate. E questo è l'aspetto più inquietante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ce ne torneremo a occupare più tardi in questa puntata. Adesso puntiamo invece sulla politica italiana con le divisioni sulla legge elettorale da una parte, poi col segretario del PD Matteo Renzi che sfida il Movimento 5 Stelle sul caso Boschi Banca Etruria e usa la commissione d'inchiesta sulle banche. Dice: noi abbiamo votato a favore, loro contro, si faccia chiarezza, dice il leader dei democratici. Sulla politica poi ci torniamo nel corso della puntata. Adesso spostiamoci sull'economia, sulla manovra economica. Tra gli emendamenti la stretta sul bollo auto e l'addio alle monete da 1 e 2 centesimi. La Commissione Bilancio della Camera interviene sugli emendamenti presentati alla manovra bis. 900 su 2600 non superano allora l'esame di ammissibilità per estraneità alla materia. A subire lo stop, tra gli altri, la serie di proposte fotocopia presentate da PD, Scelta Civica e Lega per applicare in modo certo l'IVA al 4% anche ai pani speciali. Bocciato quindi l'emendamento che chiedeva di introdurre una flat tax per attrarre i pensionati stranieri. 21 milioni di euro di risparmio all'anno potrebbero arrivare invece dall'abolizione dal 1 gennaio gennaio del prossimo anno delle monetine da 1 e 2 centesimi. Un emendamento a firma PD spiega che coniarli costa più del loro valore, i risparmi finirebbero al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Numerose a firma di tutte le forze politiche poi le proposte di modifica ammesse dalla Commissione Bilancio che puntano a sostituire i voucher, coupon per il lavoro breve, card per il lavoro saltuario, libretto di famiglia per colf e badanti. Si prevede poi una stretta contro l'evasione del bollo auto e una mini sanatoria per i dirigenti delle entrate dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di nuovo sulla pagina estera, l'amministrazione Trump accusa il governo siriano di eseguire esecuzioni di massa dei prigionieri, di bruciare i loro corpi fuori Damasco per nascondere le prove. Secondo il Dipartimento di Stato americano, circa 50 detenuti al giorno sono impiccati nella prigione militare di Saydnaya, a 45 minuti da Damasco. Il governo di Assad è sprofondato in un nuovo livello di depravazione col sostegno di Russia e Iran, così ha detto l'inviato americano in Medio Oriente, Star Jones, presentando le foto declassificate dell'edificio della prigione militare che sarebbe stato modificato per creare il crematorio. E a proposito di Stati Uniti, società americana, il 64% degli americani è a favore dei matrimoni gay. Si tratta del 3% in più rispetto allo scorso anno e di un nuovo record di consensi. Lo rivela un sondaggio di Gallup. A essere favorevoli sono il 74% dei democratici, il 71% degli indipendenti, ma anche una cifra record del 47% dei repubblicani. Il sondaggio è stato condotto tra il 3 e il 7 maggio su un campione di 1.011 persone. In Austria, dove gli austriaci saranno chiamati alle urne ad ottobre con un anno di anticipo, secondo quanto riferisce la stampa austriaca, le elezioni potrebbero perciò svolgersi l'8 oppure il 15 ottobre. Il presidente Alexander Van der Bellen ha avviato un giro di consultazioni con i partiti presenti in Parlamento. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono morte arse vive Elisabeth, Angelica e Francesca, le tre sorelle vittime dell'incendio del camper a Roma, dove dormivano avvenuto il 10 maggio scorso. E quanto emerge dall'autopsia svolta sui tre corpi su richiesta della Procura di Roma, le sorelle, colte nel sonno, non sono riuscite a uscire dal mezzo avvolto dalle fiamme. E occupiamoci adesso del cyberattacco globale, colpiti 150 paesi, ma in pochi hanno pagato il riscatto. Sarebbe stata la Gran Bretagna il primo bersaglio del cyberattacco lanciato venerdì sera dal Regno Unito. Il virus WannaCry si sarebbe poi propagato in tutto il mondo, colpendo 200.000 entità, fra le quali anche istituzioni e società private, in oltre 150 paesi. A sostenerlo è l'Europol, che assieme all'FBI sta indagando per individuare gli hacker responsabili dell'attacco, che è ancora in corso a livello globale. In circolazione da ieri sera ci sarebbe una nuova versione del virus che soltanto in Cina, stando ad una delle maggiori società di sicurezza informatica del paese, ha infettato centinaia di migliaia di computer di quasi 30.000 entità. In Giappone, invece, fra le vittime di WannaCry ci sono anche Hitachi, Nissan e il colosso ferroviario East Japan Railway. Per proteggersi, gli esperti consigliano di aggiornare le versioni di Windows installate nei PC, non aprire email o link sospetti e fare una copia dei propri dati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vedo un messaggio di un'ascoltatrice che si chiama Monica, che scrive: please Roby, una buona notizia. Allora, per chiudere, almeno una notizia che fa sorridere, anche rincuora e dà speranza, perché parlo di un uomo da record, un vero e proprio nonno scavezzacollo. Si chiama Bryson William Verdon Hayes, un reduce britannico del D-Day, dello sbarco in Normandia, appena entrato nel Guinness dei primati. A 101 anni e 38 giorni, ha avuto il coraggio di lanciarsi col paracadute, assistito da un istruttore, nei cieli dell'Inghilterra sudoccidentale. A questa impresa, arrivata dopo una vita piena di avventure, di azioni coraggiose compiute sui campi di battaglia della Normandia, hanno preso parte anche 4 tra figli, nipoti e bisnipoti di Hayes. L'iniziativa aveva uno scopo benefico, quello di raccogliere fondi per il Royal British Legion, associazione dei reduci di guerra britannici. Quindi, insomma, c'è speranza per tutti, non c'è limite d'età. 101 anni si è buttato col paracadute. E direi che questa è la chiusura. Intanto vedo altri vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio, Angie scrive, a proposito di questa sentenza della Cassazione di cui parleremo tra pochissimo sui migranti, dice: giusto che coloro che vengono da altri paesi si adeguino alle nostre regole, perché dice si deve andare a vivere dove c'è una cultura, perché si dovrebbe andare a vivere dove c'è una cultura che non ci piace, si chiede Angie. A tra poco. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme in 60 minuti da non perdere tutte le sere dalle 21 alle 22 se volete essere costantemente aggiornati a fine giornata su quello che è successo tra i fatti principali. Roberta Giordano sempre con voi sino alle 22 tutti i giorni, appunto, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo se avete seguito Effetto Notte costantemente. Allora, tra pochissimo parleremo di un tema su cui vedo molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure al 349-238-6666 su questa sentenza della Cassazione relativamente ai valori occidentali che i migranti, quando arrivano nei paesi appunto occidentali, devono rispettare le regole, i doveri oltre ai diritti. Questo messaggio dice: sono d'accordo con la sentenza della Cassazione, le nazioni sono belle ognuna per la loro individualità, quindi ben vengano i migranti, ma rispettino i nostri costumi, altrimenti si perdono tutte le peculiarità di ogni popolo. E poi altri messaggi su questo tema, per esempio c'è Danilo che dice, anzi Chiara, Marco, perché questi rispondono ad altri messaggi sempre su questo tema. Marco dice: mi sembra un concetto talmente logico, lapalissiano direi, che non ci sarebbe stato bisogno di un'affermazione da parte della Cassazione. D'altra parte, quando andiamo noi in un altro paese dobbiamo farlo, cioè di rispettare i valori di quel paese. Simone scrive: la cosa assurda è che debbano sempre intervenire i tribunali, bisognerebbe capire bene quali siano i nostri valori, quelli di Salvini, di Don Ciotti o di Le Pen o di Vendolo o di Berlusca, forse ce lo spiegherà qualche altro magistrato. Vittorio dice: beh, si trattava di un Sikh, perché la sentenza si riferisce a un caso particolare di un cittadino indiano Sikh che voleva, dice, andare in giro con un coltello di 30 centimetri. Era una ventina di centimetri, ma insomma, un bel coltellaccio. Francesco: purché non pensino che i nostri valori sono quelli della criminalità organizzata, con quel che raccontano le cronache. Tra pochissimo allora raccontiamo la vicenda. Intanto, se avete acceso puntualmente alle 21, io ogni tanto vi ricordo i fatti principali. Macron-Merkel, incontro oggi del nuovo presidente francese e la cancelliera tedesca, si dicono pronti a cambiare i trattati europei se è necessario. Intanto Macron ha nominato anche il primo ministro francese, che è Edouard Philippe, che è un repubblicano moderato. E poi le mani delle 'ndrine, dell''ndrangheta sul CARA, sul centro di accoglienza di Caporizzuto, isola Caporizzuto in Calabria, era il bancomat della mafia. E poi questa sentenza della Cassazione, di cui appunto stiamo per parlare, che dice sostanzialmente i migranti devono conformarsi ai nostri valori. La denuncia degli Stati Uniti contro il dittatore siriano Assad, dicono prigionieri uccisi e bruciati nei forni crematori. La Casa Bianca chiede a Russia e Iran di tenere a freno la Siria. E poi sul caso Banca Etruria, Renzi sfida il Movimento 5 Stelle sull'utilizzo della commissione d'inchiesta. Manovra economica, fra le varie misure, addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Il risparmio derivante dallo stop al conio è destinato al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. E poi la mafia infiltrata nei supermercati, appalti da Lidl, operazione della direzione distrettuale antimafia che ha portato a diversi arresti. Per quanto riguarda il cyberattacco globale, colpiti centinaia di migliaia di PC in Cina, venerdì il primo attacco è stato alla Gran Bretagna. Partiamo quindi da questa sentenza della Cassazione sulla società multietnica. Gli immigrati, scrive la Cassazione, che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale, hanno l'obbligo di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso di stabilirsi, ben sapendo che sono diversi dai loro, scrive la Cassazione, e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione. Non è tollerabile che questo porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. Quindi lo sottolinea la Cassazione, condannando un indiano Sikh a Mantova che voleva circolare con un coltello sacro perché diceva che faceva parte, diciamo, dei paramenti della sua e dei precetti della sua religione. La società multietnica è una necessità, dice ancora la Cassazione, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti con la cultura del paese ospitante, perché dice l'interesse primo nel nostro paese è la sicurezza pubblica come un bene da tutelare. E c'è insomma un limite invalicabile che è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. Di questa sentenza e di questi concetti che stanno facendo già discutere, ho visto varie reazioni politiche un po' di tutto l'arco parlamentare, vorrei coinvolgere un grande costituzionalista che è Michele Ainis. Buonasera Michele. Eccoci, buonasera. Quindi diciamo per qualcuno, forse possiamo dire effettivamente è una, così, un'affermazione lapalissiana. Allora cerchiamo di circoscrivere, di capire quali sono i limiti in una direzione e nell'altra. Cioè è abbastanza chiaro e credo comprensibile che qualcuno che viene da una cultura diversa, venendo in un paese occidentale, diciamo l'Italia, abbia le proprie abitudini, ma in una cornice inderogabile di regole, di doveri che ci sono in quella certa cultura, che in questo caso è la nostra. Sì. Non si è della palese, lo sottoscriverebbe questo. Però partiamo dai fatti. Le sentenze della magistratura si esercitano sulla disciplina di un fatto, mentre una legge detta dei principi ha un carattere generale. In questo caso la Corte di Cassazione interviene alla fine di una vicenda giudiziaria che riguardava un simbolo che pretendeva di sfilare, di girare per strada con un coltellaccio lungo 20 centimetri per motivi religiosi. Ora è evidente che diciamo, c'è un piano giuridico e c'è un piano socioculturale. Certo. Sul piano giuridico non deve avere un porto d'armi per portarti addosso un'arma, e mi pare che in questo caso non c'era nemmeno il porto d'armi, e certamente un coltello è in grado di nuocere, non altrettanto un velo, non altrettanto un turbante. Quindi se la che significa la omologazione del diverso che chiede di far parte della nostra società? Significa certamente che si può pretendere che lo straniero parli un po' di italiano, che conosca un po', magari meglio di quanto lo facciano gli stessi italiani, la Costituzione italiana. Non credo che si possa spingere tutto questo a pretendere una sorta di colonialismo culturale che diciamo, lo straniero debba essere vestito con una giacca, una cravatta e avere i nostri costumi. Questo lo dico perché in questa sentenza della Cassazione, io personalmente condivido rispetto a quel caso da cui è germinata, poi la Corte di Cassazione si spinge in alcune affermazioni così generali che possono alimentare degli equivoci. Cioè? Insomma, nel senso che se si pretende una assimilazione dello stesso in toto, stile, in toto, dice. Dello stesso stile di vita, ammesso che ce ne sia uno solo, poi non avrei dei dubbi. Però mi viene in mente Michele Ainis, per esempio, no? A parte appunto l'infibulazione che da qualche anno è reato nel nostro paese, cioè le mutilazioni genitali femminili che molti continuano però a praticare clandestinamente, o il fatto di costringere le donne in condizioni oppressive, no? Mi viene in mente non solo in Italia, ma per esempio Stoccolma, dove c'è stato un attentato ad aprile, ci ricordiamo, no? In un'inchiesta ho visto che c'è un quartiere di Stoccolma, il quartiere musulmano, quello più densamente popolato da cittadini musulmani, che è un po' una città nella città, uno stato nello stato, nel senso che lì le forze dell'ordine non entrano, hanno le regole proprie, con le donne anche lì le tengono chiuse in casa, hanno anche lì delle regole oppressive, repressive, però la civiltà scandinava così avanzata non si permette di entrare in quel quartiere anche nel merito dei loro comportamenti da questo punto di vista. Abbiamo visto quando sono iniziati anche i grossi attentati in Europa, a Bruxelles, che c'era un quartiere dove lì... Ecco, questo non rischia di essere autolesionismo occidentale, di non chiarire da subito quali sono, qual è la cornice di regole e di doveri oltre i diritti che naturalmente i cittadini che vengono da fuori hanno, ma che si devono assolutamente attenere a delle regole imprescindibili? Ma naturalmente sì. Se io favorisco la formazione di un ghetto, poi quel ghetto prima o poi brucia e le fiamme arrivano anche a casa mia. Però l'integrazione è sempre un'integrazione tra diversi, perché chi è uguale a me, insomma, non ho bisogno di integrarlo. E allora l'integrazione pretende comunque una forma di rispetto dell'alterità, no? Della differente identità dell'altro. Su un piano culturale, su un piano di stile di vita, di comportamenti individuali, io personalmente ho qualche dubbio persino sulla poligamia, sul divieto di poligamia. Ah, che di solito riguarda gli uomini, però non riguarda le donne, donne che possono sposare più mariti, non mi pare di aver sentito questo a proposito di... di immigrati che magari hanno queste convinzioni. Sono più fortunate, ma hanno la sciagura del doppio matrimonio. Insomma, fortunate fino a un certo punto. Comunque possiamo dire, insieme alla Cassazione, perché scrive anche questo nella sentenza, che il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. Su questo possiamo essere d'accordo? Siamo assolutamente d'accordo, purché non si confonda la civiltà giuridica con l'imposizione di uno stile di vita, di un comportamento di tipo appunto culturale. Come dicevamo poc'anzi, no? Il velo o il turbante non è offensivo, non può nuocere, è un segno esteriore di un'identità aliena rispetto all'identità degli italiani. E un coltello è una cosa diversa. Però ci sono, voglio dire, anche degli esempi in altri paesi analoghi al nostro. Negli Stati Uniti vigono delle antiche esenzioni per alcune comunità, per esempio gli Amish, che rifiutano l'istruzione obbligatoria dei loro bambini perché lo fanno per rivendicare una loro indipendenza, una loro specificità, eccetera. Lì viene rispettato tutto questo. Forse anche qui potremmo discutere se sia giusto o no. Però certamente nei fondamenti della nostra identità giuridica, civile e costituzionale c'è il rispetto del pluralismo, cioè una comunità di diversi, non come nella Cina del presidente Mao, no? Tutti con la stessa casacca verde, con lo stesso stipendio e con gli stessi... L'importante, insomma, non ledere la libertà e i diritti umani altrui, come diceva. Grazie intanto Michele Ainis. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le président de la République a nommé monsieur Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie. E questo è il primo atto importante di oggi qui ci stiamo trasferendo in Francia, del neopresidente eletto Emmanuel Macron, che ha nominato il primo ministro, che dovrà quindi formare, penso entro domani, già presentare la lista dei nuovi ministri, quindi formare il governo. L'altro atto importante, importantissimo, oggi è stato l'incontro che Macron ha avuto è volato subito a Berlino, che ha avuto con la cancelliera tedesca Angela Merkel, anche perché appena si era insediato e anche poco prima aveva annunciato Macron di voler rinforzare l'asse franco-tedesco, perché dice è essenziale per l'Europa. Ne voglio parlare con il professor Marco Gervasoni, docente di storia comparata dei sistemi politici all'Università Luiss. Professor Gervasoni, buonasera. Buonasera. Quindi, allora, prima di tutto, poi passiamo, diciamo, a questo incontro importantissimo, il primo che Macron ha voluto avere subito dal suo insediamento con la cancelliera Merkel. Ma intanto cerchiamo di capire chi è il primo ministro francese, Edouard Philippe, perché in questo probabilmente capiamo anche la strategia politica piuttosto intelligente, no, direi, di Macron. È andato a scegliere come primo ministro lui, ex socialista, adesso col suo movimento En Marche, che è diventato la République En Marche, ha scelto un repubblicano moderato, anche lui era ex socialista, questo sindaco di Le Havre, Edouard Philippe, che poi è diventato repubblicano, però moderato. È questa strategia di Macron di cercare di avere i più ampi consensi possibili, in modo trasversali, perché andare a scegliere un repubblicano come primo ministro? Sì, diciamo, l'obiettivo di Macron è quello di distruggere il Partito Socialista, e lì era facile perché l'aveva già distrutto Hollande, e quindi lui ha dovuto solo dare la pedata un finale, le carte. Insomma. Più difficile i Républicains, che sono più strutturati e così, e quindi però l'obiettivo è certamente quello. Il profilo, profilo di Edouard Philippe, ma si leggeva socialista, in realtà diciamo è stato socialista da giovane per pochi mesi, in realtà è una figura del tutto integrata alla destra. Del resto lui stesso ha detto nella prima dichiarazione: io sono un uomo di destra. Naturalmente questa destra francese poi è una destra, come tutte le destre negli altri paesi, abbastanza plurale al proprio interno. Si va da posizioni, diciamo, sarcosiste, che erano quelle, diciamo, un po' più radicali, più vicine al Front National, a posizioni invece come quelle di Juppé, di cui Philippe è stato portavoce, che invece sono su posizioni, diciamo, più morbide, più moderate sul piano soprattutto della questione del rapporto l'Islam, la sicurezza, e Però, per esempio, sul piano economico le parti si rovesciano, nel senso che la destra sarkozista, che poi si chiama Droite Populaire, proprio una corrente dei Républicains, è più statalista, mentre invece Philippe, Juppé e così sono più liberisti. Da qui diciamo l'incontro con, in particolare con Macron. Lui come figura, insomma, è una figura che ha appoggiato però dopo la sconfitta di Juppé alle primarie, Philippe ha appoggiato Fillon, ha fatto campagna per Fillon fino a un certo punto, dopo l'esplosione dello scandalo della moglie si è un po' ritirato e faceva parte della segreteria dell'UMP, cioè il partito, come si chiamava, il Républicain, prima che Sarkozy gli cambiasse il nome. Quindi non è, come ho letto adesso in alcuni commenti, una figura, come dire, così isolata, così è una figura che fa parte integrante del partito dei Républicain e che naturalmente i Républicain adesso sono in grande difficoltà perché loro devono fare campagna elettorale contro un primo ministro. Ricordiamo che è il primo ministro che fa la campagna elettorale, non è il Presidente della Repubblica, e contro un primo ministro che fa parte del loro stesso partito tuttora. E d'altra parte a una domanda del segretario dei Républicain, se volete espellere Edouard Philippe, lui a questo ha detto non ci pensiamo neanche, naturalmente. Gervasoni, anche un accenno e poi ci salutiamo sull'asse franco-tedesco, il fatto che abbiano detto una cosa importante che poi cercheremo di capire che conseguenze possa avere oggi di comune accordo Macron e Merkel, hanno detto se i trattati europei sono da cambiare, se necessario lo faremo. Cosa può significare questo? Rivolto in particolare a cosa? Innanzitutto è interessante che si dica questa cosa perché in genere appunto la questione del cambiamento del trattato europeo era considerato un tabù. Lì però nelle dichiarazioni c'è un tono diverso, Macron ha proprio detto non è un tabù, quindi spinge di più, la Merkel è più prudente, d'altra parte Schauble l'altro giorno in un'intervista a Repubblica aveva detto assolutamente, il ministro delle finanze tedesco non si tocca la questione dei trattati, che è effettivamente un po' pericolosa perché mettere in mano i trattati vuol dire che poi quasi tutti i paesi devono partire dei referendum di ratifica di questi trattati e in questo periodo è difficile vincere un referendum pro-europeista. Diciamo che quindi è sicuramente dalle dichiarazioni della stampa, a me pare che, e anche dopo aver visto le dichiarazioni dei due capi di Stato, diciamo così, dei due leader, per il momento, come dire, il volante del duo franco-tedesco ce l'ha ancora la Merkel. Naturalmente Macron deve cercare di dimostrare, soprattutto prima, durante le campagne elettorali, che già lui ha preso un po' il comando. Però, insomma, del resto anche la Merkel ha detto non siamo d'accordo, abbiamo dei punti di vista di... Però vogliamo rinforzare la nostra collaborazione, no? E quindi appena iniziata con Macron. Direi per il momento di fermarci qui. Grazie, professor Gervasoni. Grazie a voi. Buona continuazione. Intanto i vostri messaggi. Allora, sempre al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, dice questo ascoltatore, la ricetta è semplice a proposito dei valori occidentali. Ognuno può portare i propri valori ed usi purché siano valori positivi, in quanto i valori positivi non confliggono tra loro. Mentre, dice quest'altro ascoltatore, in uno stato debole, dice Francesco, il diritto viene meno, così ognuno fa quello che vuole. Sorridiamo un po' con quest'altro messaggio, questo ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, che dice il coltello può nuocere ma il copricapo è sicuramente turbante. A tra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10:30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10:30. vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Riprendiamo allora il filo delle notizie. Abbiamo parlato della Francia di Macron, del primo ministro nominato oggi, e soprattutto di questo asse già in parte rinsaldato tra Francia e Germania, con Macron che è subito volato a visitare la cancelliera Merkel, che hanno detto insieme: se i trattati europei sono da cambiare, se è necessario lo faremo. Dopodiché abbiamo parlato, anzi prima, della sentenza della Cassazione sui migranti, a proposito del caso di un cittadino sikh indiano a Mantova che voleva portare con sé un coltellone da 20 centimetri perché diceva fa parte dei precetti religiosi. Dice la sentenza della Cassazione: i migranti devono attenersi alle regole, ai valori del paese ospitante. Dice questo ascoltatore Leopoldo da Roma, perché continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349 238 6666: le sentenze dovrebbero preoccuparsi del rispetto delle leggi, i valori sono questioni più complesse, non dipendono dai giudici. Ma adesso tra pochissimo parliamo di politica italiana, mentre vi ricordo molto velocemente quali sono i titoli principali, che sono appunto: Francia, il neopresidente Macron nomina primo ministro il repubblicano moderato Edouard Philippe e vola dalla Merkel. Insieme dichiarano: i trattati europei si possono cambiare se necessario. La sentenza della società multietnica della Cassazione: i migranti devono conformarsi ai nostri valori, sottolinea la Suprema Corte. Non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori porti a violare quelli della società ospitante. Le infiltrazioni mafiose: in due operazioni di pulizia, arresti per gli affari di mafia nella grande distribuzione e per le mani dell'andrangheta sul CARA di Capo Rizzuto. E parliamo adesso della politica italiana. Ne parliamo con la nostra Elisabetta Fiorito, cronista politica, scrittrice, autrice di Carciofi alla Giudia, di cui poi cercheremo di riservare uno spazio per farci dire di cosa si tratta. Cara Elisabetta, buonasera Elisabetta. Buonasera Roberta. Politica italiana, quindi legge elettorale, e ogni volta questo è un tormentone ormai che si sa quanto andrà avanti, che già il PD ha fatto sapere che non voterà il testo base che è stato presentato per la legge elettorale. Il caso Banca Etruria e Unicredit che va avanti, con Renzi che sfida il Movimento 5 Stelle e dice: non abbiamo nulla da nascondere, facciamo questa commissione d'inchiesta relativa alle banche. Poi con Ghizzoni, sappiamo, ex amministratore delegato di Unicredit, chiamato in causa dalle rivelazioni di De Bortoli, che ha detto: parlerò soltanto quando sarò chiamato in Parlamento a testimoniare. E poi le primarie della Lega con Salvini, che insomma continua a avere questi dissapori con Bossi, però è stato, diciamo, quasi all'unanimità premiato come leader del Carroccio. E poi le incertezze nel centrodestra sulle future alleanze che riguardano anche, no, Salvini e la Lega. Allora, sono molti temi. Intanto partiamo dalla legge elettorale, in cui io ti avevo detto la scorsa settimana che siamo ancora allo stato di Big Bang, nebulosa, brodo primordiale. E lo confermo, quindi siamo ancora nel brodo primordiale, in quanto il PD non voterà il testo base, che invece vede fautori Forza Italia e Movimento 5 Stelle, un Forza Italia e Movimento 5 Stelle che si incontrano su un proporzionale, che è quello di estendere l'Italicum uscito dalla Corte di Costituzionale anche al Senato, che vuol dire soglia di sbarramento al 3%, premio di maggioranza al 40% e fondamentalmente tutto è proporzionale. Però c'è un però: non questo vuol dire che ci potrebbero essere le stesse maggioranze, perché una lista che ottiene il 40% alla Camera potrebbe non ottenerla al Senato, e non ci sarebbe un discrimine, no? Perché la legge non dice che la stessa lista deve ottenere il 40% in una Camera e anche l'altra. Ma qui lo facciamo per dovere di cronaca, la legge elettorale, che tanto per dovere di cronaca. Il PD continua a ribadire che non vuole il proporzionale puro, e quindi vuole questo sistema tedesco corretto. Che fa molto perché noi caffè siamo corretto, sì, molto, sì, grappa e sambuca. E in questa sambuca rientrerebbe il fatto di mettere un 50% dei seggi proporzionali, come il sistema tedesco, e un 50% maggioritario. Loro si sono fissati che comunque ci deve essere una parte dei collegi in cui l'elettore sceglie direttamente esattamente chi andrà in Parlamento. Senti, per quanto riguarda il centrodestra invece, Betta, perché tanto di questo brodino ne parleremo assai. Sì, sì. Ecco. Invece, e domani votano contro, quindi ci sarà questa pantomima in cui il partito di maggioranza relativa vota contro il testo base. Allora è inutile che lo presenta, cioè stiamo a perdere tempo, ecco, scusami, questa romanità, tanto per farti capire. No, è chiara e emblematica. Senti, invece sul fronte del centrodestra, quindi sul fronte del centrosinistra, c'è sempre, dicevo, la questione Banca Etruria. Aspettiamo che Ghizzoni dica la sua, parli finalmente per smentire o confermare quello che ha scritto De Borto, di cui abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana. Sulle incertezze nel centrodestra invece, no, perché Parisi, fondatore di Energie per l'Italia, Stefano Parisi, ex candidato al Comune di Milano come sindaco, ha detto Salvini qui deve decidere in vista delle alleanze per le regioni regionali in Lombardia, anzi Forza Italia meglio deve decidere, no, dice Parisi, perché vogliamo una Italia che sta nell'euro in Europa o vogliamo vediamo l'Europa e l'euro come li vede Salvini. Salvini che tra l'altro oggi è stato riconfermato, no? Cioè che in questo fine settimana è stato riconfermato. Insomma, alla fine ha vinto Salvini all'interno della Lega perché ha incassato oltre l'80%. E qui c'è uno scontro con quello che è la vecchia guardia, no? La vecchia guardia di Bossi, anche un po' Maroni, perché c'è anche un avvertimento a Maroni, che ha sempre visto nell'alleanza poi con Forza Italia il punto cardine. Ora Salvini ha un'idea di Europa completamente diversa da quella di Berlusconi, ma anche sulla legge elettorale lui sarebbe più favorevole a un maggioritario, no? Quindi a un certo punto c'è un distacco totale, allora forte di questo 80% del consenso e forte di questo fatto di dire no ad Alfano perché non si devono più fare le alleanze come erano prima, no? E lui chiaramente sta cercando una sferzata alla Lega, cioè se Bossi se ne vuole andare, insomma è tempo di cambiare. Se ne parla. Betta, abbiamo veramente 20 secondi per parlare di carciofi alla giudia, che sono ottimi, ma non credo che sia un libro di ricette il tuo. No, non è un libro di ricette, è un libro edito da Mondadori, è un romanzo che parla di un contrasto tra due famiglie, una che è cattolica agnostica e l'altra che è ebrea osservante. Rosa Maria fa la regista teatrale, David fa il commerciante a Roma. Nella Roma della crisi si uniscono queste due famiglie con molti contrasti e con molte ricette di cucina, però. Ecco, molto gustoso a partire dai carciofi. Grazie Betta Fiorito. Grazie a voi. Ciao Betta. Viabilità, sì. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Tante notizie di cui abbiamo appena parlato, vedo anche i vostri messaggi sulla politica e sulla Lega, ma adesso dobbiamo andare invece sulle infiltrazioni mafiose, questa storia, questo blitz di oggi con infiltrazioni mafiose dove meno te lo aspetti, Raffaella Calandra, anche per esempio il Tribunale di Milano mi viene in mente. Purtroppo sì, suona quasi un po' come una beffa per i magistrati milanesi aver scoperto come questo giro di infiltrazioni mafiose di un clan di catanesi, un braccio armato di una famosa famiglia mafiosa in Itto Santa Paola, fosse arrivato fino a chi controlla la sorveglianza del Palazzo di Giustizia di Milano, che in sostanza sorveglia anche sulla sicurezza degli stessi magistrati, e infatti è stato commissariato il consorzio che gestisce la sicurezza privata, appunto della sorveglianza privata del Palazzo di Giustizia, in un'indagine di che ha ricostruito come attraverso la corruzione questo clan mafioso fosse riuscito anche a gestire e ad avere il monopolio degli appalti anche di tre importanti centri della sede della Lidl, quindi della grande distribuzione, un marchio della una multinazionale tedesca, e allo stesso tempo anche riuscire attraverso sempre il meccanismo della corruzione a cercare di entrare nel giro delle mense scolastiche milanesi. Quindi un'inchiesta importante perché in qualche modo dimostra ancora una volta come la corruzione sia ormai il principale strumento che utilizzano le mafie per riuscire ad avere, diciamo, appalti, quindi ad ottenere i loro favori, ancor più della stessa violenza, e ancora una volta dimostra, per dirla con le parole del procuratore aggiunto Ilda Boccassini, di come sia facile a volte riuscire a trovare anche pubblici funzionari che si corrompano. Altro aspetto non secondario di questa inchiesta e altra caratteristica tipica di tutte le indagini di mafia, il fatto che riuscissero ad avere anche una rete di informatori che avesse garantito loro indicazioni preziose anche sullo stesso fascicolo ancora in corso, una rete di informatori pari all'interno della Guardia di Finanza, ma non è stata ancora del tutto identificata. Roberta. Grazie Raffaella Calandra, ottima sintesi di questi intrighi e di queste infiltrazioni mafiose, appunto, anche in luoghi, l'ha detto anche Ilda Boccassini, insomma, veramente dove ci sono i soldi c'è l'andrangheta, c'è la mafia. E purtroppo molti sono quelli facilmente corruttibili. A questo punto però ci fermiamo, finisce qui la puntata, poi sapete che ci riaggiorniamo brevemente alle 22.